Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. Continuano le preoccupazioni sulla Grecia e le ipotesi di un'uscita del paese dall'euro accentuano la volatilità dei mercati. I dati Eurostat sulla pressione fiscale e sul lavoro che confermano il triste primato dell'Italia, il G8 di Camp David e i nuovi equilibri fra i capi di Stato. I dati dell'Economic Outlook 2012 dell'OCSE presentati martedì 22 maggio. Sono questi i principali argomenti della settimana al centro di questa puntata di Economia in Europa. Venerdì 18 maggio, mentre Wall Street si preparava alla quotazione di Facebook in borsa, dall'altra parte dell'oceano, nel vecchio continente, si rafforzavano ben altre preoccupazioni e timori. L'origine di tutte le incertezze naturalmente si trova nella crisi della Grecia, che ha visto fallire i tentativi di creazione di un nuovo governo e ha annunciato il ritorno alle urne. In Europa si ritorna a parlare dell'uscita di Atene dalla moneta unica, vacillano i debiti sovrani con gli spread in salita e la Spagna ha annunciato il rischio di non poter più accedere al mercato per finanziarsi. Proprio nella mattinata di venerdì, Valeria De Rosa ha raccolto il commento di Pietro Martorella, country manager di AXA Investment Manager Italian SIM. Che cosa pensa di questo pessimismo che è cresciuto tra gli analisti, tra voi del settore, in merito alla volatilità dei mercati? Che cosa succederà da qui ai prossimi mesi? Ma sicuramente direi sono aumentati i pessimisti, ma siamo comunque nell'ordine del 30%, il che vuol dire che forse dovremmo guardare di più al 70%, che ancora pensa tutto sommato che la possibilità di un breakup della zona euro sia in termini probabilistici abbastanza limitato. E forse dovremmo ancor più guardare a un orizzonte un po' più lungo rispetto a quello di breve e cercare di orientare le nostre scelte nel momento in cui vogliamo allocare i nostri risparmi al resto del mondo. Visto che l'Europa oggi è così sotto attacco e così sotto stress, forse dovremmo guardare un po' più avanti. Con certezza la volatilità sarà il tema al centro dell'attenzione dei prossimi mesi. Gli effetti di un ritorno della Grecia alla dracma sarebbero molto dolorosi anche per gli altri paesi europei. Sentiamo a questo proposito Gabriele Vedani, Managing Director di Forex Capital Markets Limited, sempre al microfono di Valeria De Rosa. Al di là degli evidenti effetti che in Grecia si avrebbero un ritorno a una moneta locale, chiamiamola dracma, con tutte le problematiche oltretutto, non dimentichiamo, di ristampa del conio, delle banconote locali, che non può certo avvenire nello spazio di una nottata, ci sarebbero anche sicuramente dei problemi molto grossi probabilmente sulle nazioni che resterebbero all'interno dell'euro stesso. E per quello che riguarda i paesi periferici, stiamo introducendo appunto le eventuali pressioni che si trasferirebbero sul debito pubblico proprio di questi paesi, e abbiamo già visto nell'ultima settimana la potenzialità degli effetti negativi sui titoli, sui bonus spagnoli per esempio, ma anche la stessa Germania, che sembra un po', no, carnefice in questo caso, sì, potrebbe rivestire il ruolo di vittima, perché si troverebbe probabilmente con un euro o un nuovo marco molto apprezzato, mettendo quindi assolutamente a rischio quella che è la tendenza per il momento positiva delle esportazioni, che sono, in un momento in cui la domanda domestica latita, il vero motore dell'economia tedesca. L'Italia è in testa nella classifica europea per la pressione fiscale sul lavoro. L'ennesima conferma è giunta lunedì 21 maggio da Eurostat. Nel 2010 il peso implicito, ovvero tasse più oneri sociali dello Stato sul costo del lavoro, è salito dal 42,3% nel 2009 al 42,6%. Nei 17 paesi dell'Eurozona il tasso medio è stato del 34%. Sergio Nava ha intervistato Marco Fantini, autore del rapporto sui trend della tassazione nell'Unione. Sentiamo. Le tendenze più importanti che abbiamo riscontrato sono intanto un generale aumento della tassazione in Europa. Vediamo che fino all'anno scorso avevamo riscontrato un aumento concentrato soprattutto sull'IVA e sulle accise, mentre l'imposizione sul lavoro e sulle società tendeva tutto sommato a non aumentare o addirittura in qualche caso a diminuire. Invece in questo rapporto constatiamo che l'aumento delle aliquote comincia a estendersi. A quanto ammonta la tassazione media in Europa? Il rapporto tra imposte e contributi sociali e il PIL ammonta al 38,4% per quello che riguarda la media europea nel 2010. Per l'Italia invece siamo al di sopra della media, al 42,3%. L'Italia resta uno dei paesi col maggior carico fiscale. L'Italia è il paese con il maggior carico fiscale sul lavoro. E sulla situazione di un'Europa che va a due velocità, da una parte la Germania e dall'altro la Grecia, su cui pesa l'incognita della permanenza nell'euro, Dario Ricci ha intervistato l'amministratore delegato di Unicredit, Federico Ghizzoni, a Monaco, a margine della finale di Coppa dei Campioni, Bayern Monaco-Chelsea. La Germania oggi attraversa un periodo di boom anche in queste difficoltà e tutto sommato questa finale dà ancora più prestigio al paese, insomma. Però il problema è di tutti, perché non si può distinguere qua Grecia e Germania, il problema è europeo e ricordiamoci che da fuori Europa non guardano i singoli paesi, ma guardano all'Europa. Quindi il problema Grecia è un problema per la Grecia, ma è un problema per la Germania, come per l'Italia, la Francia e tutti quanti. Insomma. Credibile un'Europa senza Grecia, un euro senza Grecia? Diciamo un euro senza Grecia, direi che prima di tutto l'euro non è in discussione. Io non credo a un'Europa senza euro. Per quanto riguarda la Grecia, credo che l'intenzione di tutti sia di mantenere la Grecia in Europa, ovviamente, e ovviamente nell'euro. Però dobbiamo vedere quale sarà la decisione del prossimo governo greco, perché le elezioni passate hanno fatto uscire una situazione molto confusa che deve essere risolta prima di tutto dalla Grecia. Comunque l'Europa resisterà certamente. Credo che il modello europeo e l'integrazione europea continuerà comunque ad andare avanti. Anzi, questa può essere un'opportunità per accelerare su certe decisioni. Nel frattempo è arrivato anche il downgrade di 26 banche italiane da parte di Moody's, compresa Unicredit. Preoccupato da questa decisione, che peso ha? No, non sono preoccupato perché il downgrade è generalizzato, ovvero sia ha colpito l'Italia, ha colpito un paio di giorni dopo la Spagna, arriverà, so che ci sono 114 banche in Europa che sono in questo momento in sotto analisi, quindi è un trend generalizzato di al ribasso. Noi dobbiamo guardare noi stessi, dobbiamo guardare il rafforzamento patrimoniale delle nostre banche, incluso ovviamente Unicredit, a lavorare duro e reagire e basta, insomma. Il sistema bancario europeo cosa chiede alla politica europea per uscire da questa situazione di crisi e di stallo? Ci devono chiedere che tipo di sistema bancario europeo si vuole. Io credo che oggi in Europa sia difficile fare banca più di quanto fosse 5 anni fa, 3 anni fa, 10 anni fa, ovvero sia oggi abbiamo direttive europee ben chiare, no? Sulla libera circolazione di capitali, di liquidità, eccetera, la realtà è diversa. Questo non è un problema di per sé, è un problema però di competizione verso banche e gruppi bancari non europei. Quindi, insomma, l'Europa deve decidere se vuole campioni europei o no, semplicemente quello. Ed è una decisione politica e dei regolatori. Più sforzi per promuovere la crescita non significa abbandonare la strada del rigore. Lunedì 21 maggio, al termine del G8 di Camp David, il presidente americano Barack Obama ha cercato di rassicurare così la cancelliera tedesca Angela Merkel, reduce da un summit in cui ci si aspettava che i grandi della terra l'avrebbero messa con le spalle al muro, mettendo nero su bianco che la top priority, come la chiama l'inquilino della Casa Bianca, è prendere misure immediate per rafforzare economia ed occupazione. Angela Merkel si è detta però soddisfatta del vertice di Camp David, dove sono stati confermati il percorso di stabilità, il fiscal compact e gli stimoli per la crescita, come facce di una stessa medaglia. Ha poi fatto sapere il portavoce del governo Georg Streiter, confermando che la posizione tedesca resta però nettamente contraria all'ipotesi degli eurobond. Una questione sempre più discussa, in particolare dopo l'elezione in Francia di François Hollande. Sulla posizione della Germania nel nuovo assetto politico europeo, sentiamo il commento di Alessandro Merli, corrispondente da Francoforte delle Sole 24 Ore. Ma diciamo che ci sono due piani da considerare. Uno è quello di affiancare il discorso della crescita al discorso del patto fiscale, il cosiddetto fiscal compact. E lì la Merkel un po' di movimento lo ha fatto, anche se bisogna intendersi cosa ci deve essere dentro questo pacchetto per la crescita. Secondo i tedeschi soprattutto riforme strutturali, secondo gli altri anche tutta una serie di altre misure che poi alla fine credo che verranno approvate, il famoso discorso dei più fondi alla BEI, fondi strutturali europei, project bond, eccetera. Ci sono però alcune cosiddette linee rosse, alcune linee di demarcazione oltre le quali i tedeschi non hanno intenzione di andare. Dopo il G8 c'è stato già oggi pomeriggio a Berlino un incontro fra Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, e il suo nuovo corrispettivo francese Moscovici, e Moscovici ha ammesso, uscendo dall'incontro, che per esempio sugli eurobond i tedeschi non hanno intenzione di muoversi, ma che comunque Hollande li metterà sul tavolo del negoziato mercoledì alla riunione dei leader europei. Quindi nessun compromesso su questo punto. Del resto io credo che la Merkel terrà duro il più possibile, quantomeno fino alle elezioni greche e fino alle elezioni francesi del 10-17 giugno, dove a questo punto, dopo aver tifato per Sarkozy alle presidenziali, la Merkel tifa per i socialisti perché vorrebbe che a Parigi ci fosse un governo funzionante. Quindi fino a quel punto difficile aspettarsi che la Merkel faccia grandi concessioni prima diciamo del vertice europeo di fine giugno. Bisogna vedere se i mercati terranno fino ad allora. E concludiamo con i dati dell'Economic Outlook 2012 dell'OCSE, presentati martedì 22 maggio. L'OCSE tratteggia una crescita piatta nella zona euro, che nasconde importanti differenze coi paesi nordici che crescono e quelli meridionali dell'Europa in recessione. Sebastiano Barisoni ha commentato queste cifre con Piercarlo Padoan, capo economista dell'OCSE. Allora, voi dite che l'area euro è il vaso di coccio di questa debole ripresa globale, è la principale fonte di un rischio globale e chiedete che la politica monetaria sia più accomodante. Però i tassi sono già molto bassi, professore, quindi che cosa vuol dire una banca centrale europea con una politica monetaria più accomodante per l'area euro? Beh, innanzitutto chiediamo varie cose per sostenere la crescita. Alla BCE chiediamo di utilizzare lo spazio che c'è ancora per abbassare il tasso di interesse, che non è proprio zero. No. E successivamente chiediamo anche di essere pronta a usare strumenti meno tradizionali per sostenere l'economia casomai ci fosse bisogno, se la instabilità finanziaria dovesse aumentare. Per esempio le operazioni che la BCE ha eseguito nell'anno passato per intervenire sui mercati secondari dei titoli di Stato di alcuni paesi, compresa l'Italia. Cioè comprare obbligazioni dei paesi che potessero essere sì, eventualmente in difficoltà. Per evitare che a causa del contagio i tassi di interesse, il famoso spread, vada troppo in alto. Ecco, voi immaginate anche una banca centrale europea che dovrebbe poter stampare moneta e garantire in ultima istanza per le banche dell'area euro, come fanno tutte le altre banche centrali al mondo? Beh, la BCE ovviamente stampa moneta, il problema è che non ha ancora un mandato da prestatore di ultima istanza, cioè l'impegno a intervenire in misura illimitata per sostenere i titoli. Ci sono limiti legali imposti dal trattato, ma naturalmente siamo anche in una situazione, secondo noi, di particolare emergenza, bisogna che si faccia tutto il possibile per evitare che ci siano forti rischi di instabilità e possibilmente che avrebbero conseguenze recessive su tutta l'area euro e poi sull'economia globale. Quindi, per concludere il capitolo, diciamo, Banca Centrale Europea, lei ritiene che dovrebbe un po' cambiare il suo ruolo, il mandato? Dovrebbe riprendere a fare le cose che faceva prima l'anno scorso, dovrebbe farlo con più energia e di fatto segnalare che sarebbe disposta a farlo fino a che è necessario farlo. Poi si può disquisire sulla corrispondenza di queste operazioni col mandato, ma mi sembra che ci siano immagini per poterlo fare. Ecco, e voi avete fatto anche un commento sulla Grecia, prevedete che continuerà la recessione in Grecia fino a metà del 2013, ma avete detto, attenzione, l'uscita della Grecia dall'euro sarebbe disastrosa. Questo però, secondo lei, vuol dire che devono essere prese altre misure per non far uscire la Grecia dall'euro? Significa significa in primo luogo che ci deve essere un governo in Grecia che sia disposto a attuare un programma negoziato con la Troica. Questo programma non deve necessariamente essere lo stesso programma di cui si parla, che attualmente è ancora in vigore. Ci deve essere anche l'idea che la Grecia deve in ogni caso, anche se uscisse dall'euro disgraziatamente, deve attuare le riforme indispensabili per, come dire, costruire un'economia moderna e adatta a stare nella zona euro. Questo potrà richiedere parecchio tempo, quindi bisogna costruire un sistema finanziario che garantisca alla Grecia il tempo, ma che faccia molto chiaro alla Grecia il messaggio che questo tempo deve essere usato bene. Quello che la Grecia non ha fatto, soprattutto all'inizio della fase di crisi, è di implementare le riforme che venivano votate dal Parlamento. E quindi nessuno ha visto i benefici di quelle riforme perché non si è fatto quasi nulla. E per questa settimana con Economia in Europa è tutto. Economia in Europa. In collaborazione con Euronet.